ripugnante -Z22.11. A volte è riferito anche alla parola di Dio -GV3.5 e F5.26. Luogo dei morti -Atte 2.27. Nome comune per indicare un padrone -G15.2. Riconoscere con consapevolezza la santità di Dio -Z14.16. Attività che si centra su Dio -GV4.4. Relazione sessuale illecita compiuta occasionalmente -Incontro fraterno nel quale si consuma un pasto -GD1.12. Lodate o celebrate JVH. Osservare i suoi comandamenti 1GV5.3. Occuparsi concretamente del prossimo -MR12.31. Prendere l'iniziativa 1GV3.18. Condividere ciò che si sa e quello che si ha -GV15.15. Un altro te stesso -DT13.6, riveduta. Colui al quale Dio confida i suoi progetti -GV3, scomunicato maledetto -RM9.3, messaggero inviato -GB33.23, MR1.2. Letteralmente rivelazione -AP1.1. Abbandono della fede da parte di coloro che l'hanno professata 2 Tera Secondi 2.3. Inviato RO1.1. Messo da parte GA1.15. Si fece vedere G17.1. Difensore dalle accuse del diavolo AP12.101GV2.1. Immersione RO6.4 di libro -AMT1.1. Riferire informazioni non vere, -SL15.3. Dono ricevuto dallo Spirito Santo 1CO12.30. Agire secondo gli impulsi corrotti naturali 1CO3.1. Ogni stimolo proveniente dalla natura corrotta dell'uomo -RM7.18. Il ricordo del sacrifico e della resurrezione di Gesù Cristo 1CO11.20. Assemblea -CL1.18. Unione co. Partecipare. Condividere 2.42. Desiderio illegittimo 1GV2.17. Avere una percezione personale di Dio quanto la nostra persona OS6.3. Termine usato anche per indicare un rapporto sessuale G4.1. Cambiare rotta o direzione 1T1.9. Cambiare rotta o direzione 1T1.9. Chiunque ha posto fede in Cristo 1CR7.1 3 15 AT 16.1 1 Tera 5.16. Nome attribuito a Messia GV7.26. Servizio AT 17.23. ROM 12.1. FL 3.3. GV16.2. Servizio religioso -RM12.1. Termine attribuito alla sede della volontà, meno attribuito alla sede della volontà, -TRI18.36. In italiano abbiamo disperse. Sono i cristiani sparsi nel mondo -GC1.1, 1PT1.1. Calunniatore, -T4.1. 1. Abominazione 2. Acqua. 3. Hades. 4. Adonai. 5. Adorare Dio. 6. Adorare 7. Adulterio. 8. Agape. 9. Alleluia. 10. Amare Dio. 11. Amare il prossimo 12. Amare 13. Amicizia. 14. Amico 15. Amico di Dio. 16. Anatema. 17. Angelo. 18. Apocalisse. 19. Apostasia. 20. Apostolo. 21. Appartato 22. Apparve. 23. Avvocato 24. Battesimo 25. Benedire. 26. Bestemmiare Dio. 27. Bibbia 28. Calunniare 29. 29. Carisma. 30. Carnale. 31. Carne. 32. Cena del Signore. 33. Chiesa. 34. comunione, 35, concupiscenza, 36, conoscere Dio, 37, conoscere 38, conversione, 39, corrotto, 40, coscienza 41, creare, 42, credente, 43, credente, 44, cristiano, 45, Cristo, 46, culto, 47, culto, 48, cuore, 49, diaspora, 50, diavolo, 51, Dio, la parola di Dio, indica sia la scrittura, sia Gesù Cristo, sia la predicazione, meno, G, V, 1.1, 1, Tes 2.1, 3, 52. Dio, nell'Antico Testamento, è la traduzione del termine Elohim, una divinità o autorità, GN 1.1. 53. Dio, ogni falsa divinità, meno di, T 32.39. 54. Discepolo. Colui che segue, Luca 6.40. La relazione che ha Cristo con il Padre e lo Spirito, 1 GV 4.15, greco uios, relazione sessuale illecita. Nel matrimonio, quando è continuativa, 1 Co 5.1. Chi è nato di nuovo, 1 GV 3.10. Tutto ciò che procede dalla persona dello Spirito Santo, Ga 5.22. Luogo dei morti condannati, meno MT 5.29. L'insieme delle persone discese da un unico capostipite, meno MT 24.34. Termine riferito ai non ebrei, chiamati anche pagani, meno GL 2.14, MT 6.7. Il principio della creazione, primo di una serie, la causa attiva, meno AP 3.14. CL 1.18. Primo per rango dignità, meno RM 8.29, EB 1.6, AP 1.15. Appartenente alla razza di Abramo, meno GL 3.28. Sentenziare o valutare, meno GV 7.24, 1 Co 6.3, RM 14.13. Reso giusto o dichiarato giusto, meno GV 5.1. Riferita a Dio, è il suo giusto operato, meno, riferito al credente, è colui che ha i peccati perdonati, meno RM 5.19. Ogni manifestazione del Dio Trino, meno SL 19.1. Ottenere ciò che è stato promesso, meno RM 8.17, 30. I smisurati doni immeritati, LU 2.40. Tutto ciò che produce benessere, meno CL 4.6. Tutto ciò che sostituisce il Dio Trino nel culto, 1 Co 8.4, 55, divorzio. Rottura del vincolo matrimoniale consensuale, meno, non si trova nella Bibbia. 56. Edificare. Tutto ciò che è un bene per il prossimo, At 20.3, 2, 57. Elezione. Termine usato per chi fa una scelta, meno CL. 3.12, 58. Elohim, nome generico per indicare una divinità, o anche autorità, G1.1, 59. Empio, non pio, meno SL10.2, 60. Epistola, lettera, meno RM16.2, 2. 61. Eterno. Traduzione del tetragramma Yahweh, cioè già HVHGN 2.4. 62. Faccia di Dio. La sua volontà, meno SL27.8. 63. Favola. Racconto nel quale animali e cose hanno comportamenti umani, meno GD 9.8.15. 64. Fede. Adesione ad una testimonianza meno e b 11.1. 65. Fedeltà. Mantenere la parola data. 1. G. V. 1.9. 66. Figli di Dio. Riferita ai credenti in Cristo, GV 1.12, greco tecna bambini e angeli GN 6.2. 67. Figlio riferito a Cristo, al popolo di Israele, a chi è generato rispetto ai genitori, S 4.2. 268. Figlio di Dio. 69. Fornicazione. 70. Fratello 71. Frutto dello Spirito. 72. Geenna. 73. Generazione. 74. Gentile. 75. Gesù il principio. 76. Gesù primogenito. 77. Giudeo 78. Giudicare. 79. Giustificato, 80. Giustizia, 81. Giusto, 82. Gloria di Dio, 83. Glorificati, 84. Grazia di Dio, 85. Grazia, 86. Idolo, 87. Imposizione delle mani, segno di comunione, at 6.6, 8.17, 9.17, 13.13, un terametro 5.22, 88. Impurità, 89. Imputare, 90. In Cristo, 91. Indemoniato, 92. Intercessione, 93. Intermediario, 94. Invocare, 95. Io sono, 96. Israele, 97. Yahweh, 98. L'ira di Dio, 99. Legge 100. Lodare Dio, 101. Luce, 102. Maldicenza, 103. Maledire, 104. Mediatore, 105. Mente di Cristo, 106. Messia, 107. Misericordia, 108. Mistero, 109. Moralismo, 110. Morte, 111. Nazarino. Non totalmente puro o perfetto. Gal 5.19. Addebitare. Ro 4.3. Espressione per indicare dove si è e ciò che si possiede. Ro 8.1. 1 Cor 1.4. Totalmente alla mercé del demonio. Meno GV 10.21. Pregare o agire a favore degli altri. 1 Titu 2.1. Vedi mediatore. Riferito a Yahweh, è una sua caratteristica di eterna presenza S3.14. Colui che lotta con Dio GN 32. L'applicazione della sua giustizia, meno RM 1.18. Un evento che si ripete all'infinito, meno RM 8.2. Il riconoscimento di quello che fa, meno SL 150.6. Riferito a Dio è sinonimo di amore, 1 GB 1.5. Riferire verità inopportunatamente, meno PR 26.22. Dire male o augurare male, NU 23.8. Colui che mette in relazione le due parti, un terametro 2.5. La capacità di ragionare come si dovrebbe, meno R. Separazione, meno LC 15.32. RM 6.23, 2 CO 7.10, GC 1.15, 2.26. Riferito a Gesù, egli è il ramo, il germoglio, il virgulto meno MT 2.23, 112. Nome, 113. Odiare, 114. Onorare, 115. Opera, 116. Opere della carne, 117. pace con Dio. 118. Pace di Dio. 119. Padre. 120. Pagani. 121. Parabola. 122. Peccato. 123. Pene eterne. 124. Pentirsi. 125. Perdonare. 126. Perdono di Dio. 127. Perfetto. 128. Pio. 129. Predestinati. 130. Preghiera. 131. Profeta. 132. Profetizzare. 133. Profezia. 134. Propiziazione. 135. Proponimento. 136. Ravvedersi. 137. Redenzione. 138. Redimere. 139. Religione. 140. Resurrezione. 141. Riconciliare. 142. Ricordati, o Dio, intervieni. Meno sesse, L27.7. 143. Rigenerato. 144. Ringraziare Dio. 145. Riposo. 146. Ripudio. 147. Rivelazione. 148. Sacerdote. 149. Sacrifico. 150. Salvato. 151. Salvezza. 152. Santificazione. 153. Santo 54. Satana. 155. Sheol. 156. Schiavo quanta te cariti sentimento. Sentimento. 158. Servo 159. Signore 160. Signore 161. Sofferenze di Cristo. 162. Sottomissione. 163. Sovranità di Dio. 164. Speranza. 165. Spirituale. 166. Supplicare Dio. 167. Talento. 168. Temere Dio. Esprime la peculiarità di una persona meno GN 32.29, S9.13, Giudici 13.17. Amare meno meno LC14.26 o mettere al secondo posto meno RM9.13. Riconoscere negli altri ciò che gli perviene, come il denaro, meno MT15.4. E tutto ciò che l'uomo conti è per piacere a Dio, meno RM4.4. Tutto ciò che procede dalla natura corrotta dell'uomo, meno GL5.19. Quel senso di tranquillità che si prova nei momenti difficili, meno FL4.7. Riferito alla Deità, a volte questo termine ha il senso di Trinità, meno MT6.9. Coloro che non hanno istruzione e sono senza la legge di Dio, meno MT6.7. Racconto tratto da Eventi ordinari della vita, meno LC8.10. Termine per definire ogni trasgressione alla legge di Dio, meno RM6.6. Separazione dal Dio Trino senza fine, meno MT25.4. Prendere coscienza dei propri errori e abbandonarli, meno MT21.29. Non ritenere più il prossimo debitore, meno MT18.35. Ciò che Dio non addebita all'uomo, LU5.20, GV8.11. Ha il senso di completo, meno MT5.48. Dedito alla santità, meno SL18.25. Separati EF1.5. Ogni forma di comunione con Dio, MAR 6.4. Parlare in modo da edificare, di esortare. Annuncio da parte di Dio non necessariamente del futuro, 1 Co 13.2. Rendere favorevole 1GV 2.2, riveduta. Progetto di Dio EF 1.11 3.11 RM 8.28. Vedersi di nuovo meno MT 3.2. Liberazione meno MT 3.2. Liberare Mi 6.4. Legame con la divinità meno GM 1.2 6.5. Ritornare in vita un terametro 2.8. Unire le parti in conflitto. Nel matrimonio ebraico, un'azione unilaterale, meno MMT 5.32. Una verità fatta comprendere dalla mente al cuore, meno EF 3.5. Mediatore, o colui che offre un culto a Dio, 1PT 2.5. Offerta spontanea contenente in sé il senso di perdita, meno RM 12.1. Una liberazione, sia passata, presente e futura, meno RM 8.24, RM 5.10, 1 Cor 1.18. Termine generico che racchiude in sé il senso di liberazione. Un continuo cammino adeguato al volere di Dio, EB 12.14. Appartato per uno speciale compito, RM 1.7. La persona, demone o uomo, avversari a Dio, meno MT 16.23, GB 1.6. Il luogo dei morti, meno SL 6.5. Apparteneva come anima e corpo ad un altro senza retribuzione, meno RM 7.14. Nella Bibbia il senso di decisione, volontà, meno FL 2.5, IS 26.3, SL 64.3. Termine generico attribuito ad un'autorità, meno GN 24.10. Essere coerente con la propria fede al volere di Cristo, 1 P T 4.13. Rispettare l'autorità non è sinonimo di ubbidienza, meno RM 13.5. Volontà di Dio che a volte considera anche il volere dell'uomo, meno SL 115.3, GER 18.78. Attesa certa, meno RM 8.24. Ciò che appartiene o è condotto allo Spirito, meno RM 7.14. Implorare le promesse di Dio, meno FL 4.6. Dono naturale ricevuto alla nascita, meno MT 25.24. E odiare il male, meno PE. Tenebre 170. Tentare Dio 171. Testimone 172. Ubbidire 173. Ungere 174. Vangelo 175. Vantarsi in Cristo 176. Verità 177. Violenti 178. Vita eterna 179. Vita 180. Vivificare 181. Zelo. Sinonimo di odio e di mancanza della luce divina. 1GV 1.5. Costringerlo a compiere un'azione, meno MT 4.7. Colui che ha udito e visto una cosa e la riferisce, Lev 5.1. Atto 1.8. 2PT 1.16. Compiere ciò che è stato comandato, meno di T 12.28. Nell'Antico Testamento è sinonimo di chiamata. Scelta S 28.41. Buona notizia di quello che uno ha fatto e non solo detto, meno MT 26.13. Esprimere ciò che si è ricevuto ed esserne felici, meno RM 5.11. Tutto ciò che è conforme alla realtà, 1GV 2.21. Fermezza e determinazione della ricerca di Dio, meno MT 11.12. E Gesù Cristo, oppure l'armonia della creatura con Dio, 1GV 2.4. A riprendere il desiderio di vivere, meno SL 119.4.